Focus Economia. Sette, mercoledì 30 dicembre, di nuovo insieme per una nuova puntata di Focus Economia. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Vincenzo Miglietta. Per evitare le corse in chiusura di trasmissione ringrazio subito Barbara Bianchi e Mauro Del Corno per l'assistenza al programma ed Alessandro Chiappini e Paolo Corleoni in regia. Ricordo anche il numero per i vostri sms e whatsapp 349-238-6666 e la possibilità di scrivere sul sito di Radio 24.it. Puntata quella odierna tra l'attualità e i tradizionali bilanci di fine anno. Nell'attualità rientrano di sicuro i dati dell'indagine elaborata a quattro mani da Confindustria e Banca Intesa sul Mezzogiorno. Il Sud sembrerebbe essere ripartito con un PIL atteso per il 2015 in crescita più 0,2% e nel 2016 a più 1%. Ripartenza trainata da incrementi dell'occupazione e dai buoni risultati delle esportazioni. E poi altra notizia di attualità: l'intesa di Apple Italia con il fisco. In ballo c'erano 880 milioni di IRES non pagata. L'azienda di Cupertino, o almeno la sua controllata nel nostro paese, verserà invece a saldo 318 milioni di euro. Paghiamo più tasse di chiunque altro, si è difeso l'amministratore delegato di Apple Tim Cook, sotto accusa però le pratiche contabili della Apple che, secondo un'indagine del Senato americano, dirotterebbe gli utili in Irlanda, dove la tassazione è per così dire friendly, amica, nascondendo però i profitti al fisco degli altri paesi, Italia compresa. Quindi ampio spazio oggi, ultima puntata in diretta dell'anno di Focus Economia ai mercati, tempo di bilanci. Il 2015 è stato un anno record per la borsa italiana, sia in termini di performance che di nuove quotazioni. Il FTSE MIB ha guadagnato il 13,94%, il FTSE All Share addirittura il 16,47%, meglio allora di Parigi, Francoforte e Tokyo, che hanno avuto buon andamenti, e nettamente meglio di Wall Street e Londra, per le quali l'anno è da dimenticare. Male poi le materie prime, le abbiamo seguite tutto l'anno, tra tutte il petrolio che ha visto progressivamente nell'arco dell'anno perdere quota, segni meno anche per oro, rame, argento e commodities agricole. Un flash sulla giornata dei mercati, dove prevalgono le prese di beneficio nell'ultima seduta dell'anno, complice anche un nuovo calo del prezzo del greggio. Vediamo gli indici europei: Francoforte meno 1,08, Londra meno 0,57, Parigi meno 0,32, Madrid meno 0,35, Milano meno 0,53%, il FTSE MIB, FTSE All Share meno 0,41, Wall Street, Dow Jones meno 0,17, Standard & Poor's 500 meno 0,24, e quindi l'euro su dollaro 1,0919. Segnalo infine, e lo stiamo facendo questi giorni, la guida pratica alla legge di stabilità all'interno del Sole 24 Ore. Oggi si parla degli sconti fiscali per impianti e macchinari, domani quarta puntata di 10 con i cambiamenti fiscali che interessano le imprese, focus in particolare sulle nuove regole per recuperare l'IVA. Questo è il nostro percorso di oggi. Scriveteci allora al 349-238-6666. Passiamo ora alle notizie in breve. Siamo con le materie prime. L'oro che scende dello 0,8% a 1059,9 dollari l'oncia, il petrolio giù del 2,7% a 36,8 dollari il barile. Anche ieri notizie che provenivano dalla Russia sull'economia di Mosca. Oggi parliamo del rublo, prosegue il momento difficile dell'economia di Mosca. Il rublo tocca nuovi minimi nei confronti sia del dollaro che dell'euro sull'onda dei prezzi bassi del petrolio, in particolare nei confronti del biglietto verde, nuovo record negativo. In apertura di giornata il cambio si è attestato a 72,8 rubli per dollaro e 80 rubli per euro. Continuano a crescere i prestiti alle famiglie a novembre, il credito accelera a più 1,4% su base annua da più 1,2% di ottobre, lo rende noto la BCE, aggiungendo che i prestiti alle imprese non finanziarie sono aumentate dello 0,9% dopo il più 0,6% di ottobre. Ancora la BCE sale a 129 dalle precedenti 123 il numero delle banche dell'Eurozona che ricadono sotto la diretta sorveglianza della Banca Centrale Europea in quanto significative. Lo annuncia una nota della BCE. Fra le banche entrate sotto diretta sorveglianza di Francoforte, che inizierà entro gennaio, c'è l'italiana Credem. Ancora banche, ne parleremo in maniera più approfondita nell'arco della nostra trasmissione, parleremo anche di Banca Etruria. In questo caso siamo in Portogallo, la Banca Centrale del Portogallo ha ordinato il trasferimento di alcune obbligazioni ordinarie di Novo Banco nella Bad Bank Banco Espirito Santo, creata dopo lo smembramento dell'Istituto Espirito Santo, imponendo così le perdite sugli obbligazionisti ordinari. Questa misura si è resa necessaria per fare in modo che le perdite di Banco Espirito Santo vengano innanzitutto sostenute da azionisti e obbligazionisti e non dal sistema finanziario e dai contribuenti, ha spiegato la Banca Centrale di Lisbona. Anche oggi protesta per quanto riguarda, e siamo così in Italia, il caso di Banca Etruria. Lunedì è stato la volta di Arezzo, oggi a Civitavecchia. È una vergogna, questo lo slogan di tanti risparmiatori davanti alla sede. Decine di persone si sono date appuntamento davanti alla sede di Banca Etruria in pieno centro storico a Civitavecchia. Ad organizzare la protesta è stato il Codacons. Il Tesoro ha assegnato in asta BTP a 5 e 10 anni per un importo massimo complessivo di 4,5 miliardi di euro con tassi in lieve rialzo. Sulla scadenza quinquennale il rendimento è salito dal minimo storico dello 0,37 allo 0,57, mentre su quella decennale il tasso è cresciuto dall'1,36 all'1,59%, venduti anche 1,5 miliardi di CCT europei dicembre 2022. Di Apple abbiamo parlato, ricordiamo la transazione con il fisco italiano, 318 milioni di euro rispetto agli 880 contestati. L'Istat, nel mese di novembre 2015, l'indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali diminuisce dello 0,5% rispetto al mese precedente e del 3,3% nei confronti di novembre 2014. E lo sottolinea l'Istat, che aggiunge i prezzi dei prodotti venduti sul mercato interno diminuiscono dello 0,6% rispetto a ottobre e del 4,2% su base tendenziale. Veniamo al Capodanno, le solite stime che circolano in queste ore. La spesa totale per il cenone di Capodanno raggiungerà quest'anno i 2,5 miliardi di euro, in rialzo di 140 milioni rispetto all'anno scorso, e quanto emerge da un'indagine di SVG e Confesercenti, secondo cui è tornata la voglia di spendere per il cenone di San Silvestro. Le retribuzioni nel comparto pubblico, quelle pro capite di fatto, sono scese di circa l'1% da quando è iniziato il blocco contrattuale, ma se tra il 2010 e il 2014 la dinamica accumulata è stata negativa, nei 10 anni precedenti si è registrato un incremento attorno al 40%, sono numeri questi diffusi dall'ARAN, l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale. Ora velocemente, il tema lo abbiamo sentito anche nel giornale radio di Radio 24 delle 17, l'incontro questa mattina a Roma sul tema dello smog, l'emergenza smog, tra il ministro dell'ambiente Galletti e sindaci e governatori delle zone della nostra penisola maggiormente coinvolte. Sentiamo direttamente dalle parole del ministro Galletti le misure adottate nel vertice di oggi. Sulla prima parte emergenziale abbiamo trovato un'unità di comportamenti. Da ora in poi, dopo 7 giorni, ci sarà il protocollo che firmeremo, prevede una serie di adempimenti che i comuni possono mettere in campo. Io come governo dico devono mettere in campo. Poi è chiaro che la titolarità degli interventi resta in capo ai sindaci, quella non gliela può togliere nessuno, nel senso che la legge prevede che siano loro a dover fare queste manovre di emergenza, queste azioni di emergenza. Io come governo, lo dico con molta chiarezza, invito fortemente, auspico che i comuni mettano in campo le misure che noi oggi con l'associazione dei comuni e con le regioni abbiamo condiviso. Quali sono queste manovre? Sono l'abbassamento della temperatura di 2 gradi negli edifici pubblici e privati, la limitazione della velocità di circolazione nei centri urbani. Tutti i limiti vengono abbassati di 20 km orari. Accanto a questa manovra ci sarà una scontistica sui mezzi pubblici, autobus e metropolitane, là dove esistono. Questa scontistica è assistita da un fondo di 12 milioni che il mio Ministero mette a disposizione già a partire dal 2015, quindi anche per gli sforzi economici che i comuni hanno già compiuto in questa prima fase di emergenza. Meno 20 km, scontistica sugli autobus. E così il ministro dell'Ambiente Galletti, ricordiamo, le risorse totali ammontano a 405 milioni, sono programmate e disponibili per la strategia quindi di medio periodo contro lo smog nelle grandi città. Ancora Galletti, mi auguro che dopo questa riunione si metta fine alla babele dei provvedimenti in materia di smog. Sentiamo ancora Galletti. Io mi aspetto che dalla prossima volta non ci sia più la babele dei provvedimenti, perché quello è quello che sconcerta anche i cittadini. La sera ognuno di noi che abita in quelle città, compreso me, si deve chiedere: domani ci sono le targhe pari? Mia moglie mi dice: no, ci sono le targhe dispari. Si alza mio figlio e dice: no, ho guardato su internet, c'è il blocco del traffico. No? Ecco, io vorrei che queste cose non ci fossero più, che noi sappiamo che quando scatta l'emergenza quelli sono i provvedimenti, anche perché la gente si abitua. Io spero davvero che la gente non si abitui, perché spero che non ci sia più l'emergenza. I provvedimenti strutturali vanno in quella direzione, quindi mi auguro proprio che non vadano mai in vigore, no? Che domani venga il vento, venga a piovere, che non dobbiamo neanche mettere in atto. Ma se per caso dovessimo metterli in atto, sappiamo che abbiamo un decalogo condiviso, ragionato anche da un punto di vista scientifico coi tecnici e condiviso da gran parte dei comuni. A una grande emergenza noi abbiamo risposto con una grande alleanza. Quindi lo abbiamo sentito dal ministro Galletti, dall'improvvisazione che è sembrata un po' a tutti di questi giorni si deve passare ad una strategia più organica, soddisfatti i rappresentanti degli enti locali. Allora passiamo al presidente dell'ANCI, Fassino. Si mettono in campo gli strumenti di controllo e anche gli strumenti sanzionatori che sono nelle potestà dei sindaci e che già vengono applicati. Gli strumenti di controllo e di sanzione di cui già i comuni dispongono saranno utilizzati anche di fronte per garantire l'osservanza delle misure che qui sono indicate. Che sono indicate, e l'ANCI, sottoscrivendo il protocollo, le condivide, il che significa che noi diamo delle indicazioni che hanno l'obiettivo di orientare e incoraggiare i comuni a muoversi in primo luogo adottando queste misure. Ovviamente la legge, come è noto, riconosce ai sindaci la sovranità sul territorio del comune nel quale sono stati eletti. È chiaro che poi ogni sindaco continua ad avere nella sua piena disponibilità ogni decisione. Però fino ad oggi noi non avevamo delle linee guida. Questo documento determina delle linee guida che, come dire, dovrebbero facilitare l'adozione di misure omogenee, e l'ANCI lavorerà perché sia così. Ecco, i rappresentanti degli enti locali mi sono sembrati più attenti a quello che riguarda il rapporto tra il traffico e lo smog. Il ministro Galletti ha invece allargato il tema anche al riscaldamento degli edifici. Sindaci e governatori, lo ripeto, più attenti al traffico, lo ha sottolineato il presidente dell'ANCI Fassino, lo ha sottolineato anche il presidente della regione Lombardia Maroni, che per il quale la priorità è il trasporto pubblico locale, avvantaggiare anche lo spostamento dei pendolari. Ascoltiamo allora Maroni questo prima che iniziasse l'incontro. Tra l'altro fatto una serie di misure riducendo ed eliminando la circolazione dei veicoli più inquinanti e dall'anno prossimo attueremo una riduzione anche per gli Euro 3 addirittura, no? Nessuna regione lo fa, Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 avranno fortissime restrizioni. Certo, se il governo ci desse degli incentivi potremmo eliminarli totalmente, sappiamo che cosa serve. Facciamo tre proposte al governo: primo, dare attuazione a un accordo di programma che abbiamo già siglato ma che il governo non ha attuato, per creare un coordinamento tra le regioni della Valpadana, perché lì si concentra l'inquinamento. Secondo, investimenti sul trasporto pubblico locale via ferro. Noi abbiamo una serie di progetti, ci serve 1 miliardo nei prossimi 5 anni per aumentare il trasporto su ferro diminuendo quello su gomma. Terzo, la rottamazione, incentivi alla rottamazione delle vecchie auto inquinanti, Euro 0, Euro 1, Euro 2 e Euro 3. E anche qui 200 milioni all'anno per i prossimi 5 anni. E così il presidente della regione Lombardia Maroni: è necessario pensare ad un fondo straordinario per tutto ciò che serve per rottamare le auto più inquinanti, ha detto il presidente della conferenza delle regioni Stefano Bonaccini. Con questa notizia chiudiamo le notizie in breve e passiamo al nostro primo tema. Primo tema della puntata di oggi di Focus Economia, dedicato al mezzogiorno, al sud. Lo dicevamo nel nostro sommario, sembrerebbe che qualcosa si stia muovendo sotto l'aspetto economico, logicamente, del mezzogiorno. Almeno a dircelo è l'indagine condotta dal Centro Studi di Confindustria e dalla SRM, Centro Studi collegato al gruppo Intesa San Paolo. Allora vediamo di base cosa viene detto. Il PIL del mezzogiorno in lieve ripresa, quest'anno dovrebbe segnare più 0,2%, mentre nel 2016 è previsto un aumento dell'1%. Commentiamo questi dati con Salvio Capasso, responsabile dell'ufficio studi sull'economia delle imprese e del territorio e dell'ufficio per il Mediterraneo proprio di SRM. Buon pomeriggio Capasso. Buon pomeriggio a lei. E Capasso, prima di chiedere il suo contributo, ricordo, facciamo una fotografia veloce di quanto pesa l'economia del sud rispetto all'intera economia dell'Italia. La popolazione è di quasi 17 milioni su 61, quindi il 27%. Il PIL nel 2014 del sud era di 283 miliardi di euro su 1634 dell'intero paese. Il PIL pro capite del 2014 nel mezzogiorno 16.975 euro al sud contro i 26.700 in Italia. L'export delle imprese sempre nel 2014 40,6 miliardi al sud, 398 nel resto del paese. Quindi potremmo dire che il mezzogiorno come contributo all'economia del paese è abbastanza relativo, seppur importante. Ma Capasso, Salvio Capasso, è importantissima questa indagine che voi oggi rendete nota, proprio perché dopo anni di stallo sembra che il mezzogiorno torni a crescere. Assolutamente, noi già nel precedente numero del check-up che uscì a luglio intravedemmo alcuni segnali di controtendenza rispetto agli ultimi mesi, agli ultimi anni. Adesso nel nuovo numero uscito proprio oggi vediamo che queste prospettive diventano un po' più forti, sono moderatamente positive per l'anno che chiude e per il prossimo anno. In particolare noi vediamo che nel dato congiunturale, al di là del PIL, ci sono stati interessanti variazioni positive in ambito dell'export e anche dato occupazionale, che nonostante il grosso calo che c'è stato ovviamente nel corso della crisi inizia ad invertire la tendenza. Quello che invece ancora frena su cui è importante agire evidentemente sono il volume degli investimenti, che ancora risultano in calo e che rappresentano veramente l'aspetto più rilevante su cui dover agire per una reale ripresa del mezzogiorno. Certo, certo. Ricordiamo che i vostri dati di oggi, quindi un PIL nel 2015 che dovrebbe segnare a fine anno, ormai ci siamo, un più 0,2%, ma la crescita attesa è in tutto tutti e due gli anni, quindi 2015 e 2016, comunque inferiore a quella del resto del paese. Come mai? Ancora inferiore al resto del paese, evidentemente il mezzogiorno ancora porta il residuo di tutta la forte crisi degli ultimi 7 anni, che ha veramente inciso molto sullo stock di capacità produttiva del mezzogiorno. Però è proprio per questo è importante, secondo me, che l'analisi dei dati vada anche oltre la media, il dato aggregato, e cercare di affrontare e analizzare il mezzogiorno entrando nel dettaglio dei propri territori, perché evidentemente quel discorso del peso relativo, per esempio, del mezzogiorno rispetto al centro, al resto dell'Italia, intorno al 20%, certo, no, la popolazione, certo, eccetera, in realtà va anche letto in un'ottica diversa, può essere letta anche in un'ottica diversa, cioè per esempio leggendo nell'ottica delle interdipendenze, cioè delle filiere lunghe che sono presenti all'interno del mondo, specialmente manifatturiero italiano, e che hanno nel mezzogiorno alcuni poli di eccellenza molto rilevanti che danno capacità competitiva all'intero paese. Vorrei ricordare l'aeronautico, l'automotive, l'agroalimentare, l'abbigliamento, la filiera marittimo portuale, sono tutti settori che sono forti eccellenze del territorio meridionale e che evidentemente spesso nelle medie vengono soffocati. Ecco perché l'interesse deve essere anche quello di comprendere assolutamente i fenomeni al loro interno. Cerchiamo, certo, di andare al di là dei numeri, lo faremo con lei, con la sua gentilezza, nei prossimi minuti. Ricordo ancora, per inquadrare bene la situazione del mezzogiorno, è che nel periodo quindi dall'inizio della crisi, dal 2008 al 2014, perché sono di fatto i dati che noi abbiamo, il 71% dei posti di lavoro persi in Italia è al sud, ben 576.000 su 811.000. Quindi quando voi oggi dite che vi è un incremento dell'occupazione nei numeri di oltre 100.000 unità, già questo è un elemento molto importante, proprio perché è riferito a questa percentuale che avevamo perso. Assolutamente, infatti chiaramente il discorso è congiunturale, no? Evidentemente, quindi al netto del grande calo che c'è stato ed è rilevante socialmente ed economicamente per il mezzogiorno, è interessante notare come già nel precedente numero, e adesso è confermato, c'è un'effettiva ripresa nel numero degli occupati, che è un elemento importante. Si sta ritornando a quel valore soglia di 6 milioni di occupati nel mezzogiorno, valore psicologico che era sceso, da cui eravamo scesi negli ultimi 2 anni, e che adesso si sta avvicinando, siamo intorno ai 5 milioni e 970, e sono importanti questi momenti perché sono quei cambi di tendenza che un rapporto appunto per atto congiunturale deve poter segnalare per dare poi valore e significato alle azioni da intraprendere. Certamente. Capasso, prima di fermarci per il meteo, farei ascoltare un brevissimo passaggio di ieri della conferenza stampa di fine anno del Presidente del Consiglio Renzi, proprio per il Sud, e poi l'andiamo a commentare brevemente e poi passiamo alle notizie sul meteo. Avete dimenticato il Sud? Vorrei farvi l'elenco dei provvedimenti per il Sud. Credito di imposta, terra dei fuochi, 450 milioni di euro. Bagnoli, commissariamento e partenza. Ilva, Salerno e Reggio Calabria, continuità territoriale, 1 miliardo per l'Abruzzo del post-sisma. Napoli, Bari, i tavoli di crisi aperti ovunque. Ho l'impressione che chi ci diceva di aver dimenticato il Sud si sia dimenticato delle accuse che ci muoveva. 349-238-6666 il numero per i vostri sms, ma anche un numero WhatsApp. Salvio Capasso è con noi, responsabile dell'ufficio studi di SRM, centro studi collegato con in Banca Intesa. Le parole del Presidente del Consiglio Renzi, al di là del giudizio politico, ma nello specifico del Sud, come giudica gli elementi nella legge di stabilità ricordate dal Premier? Allora, indubbiamente rispetto agli ultimi anni in cui effettivamente il mezzogiorno era stato messo non sempre al centro dell'attività comune, anche tutti gli operatori, adesso effettivamente c'è un maggiore interesse alle dinamiche del mezzogiorno, e indubbiamente nell'ambito della legge di stabilità ci sono elementi nuovi e interessanti. Uno di quelli che ho sentito è sicuramente il credito d'imposta, che indubbiamente è uno strumento che, impattando sugli investimenti in beni strumentali, indubbiamente, in particolare nel 2015, ma in particolare nel 2016, potrà avere un certo rilievo. Ricordiamo che dovrebbe mettere a disposizione nei prossimi 4 anni circa 2 miliardi e mezzo di euro, quasi 620 milioni di euro all'anno. E se noi consideriamo che l'attività di erogazione per incentivi in tutto il 2014 è stato da parte del Mezzogiorno è stato di 1,1 miliardi, capiamo l'importanza di questi strumenti, certo. Cioè l'idea di poter attivare un meccanismo di investimenti che è quell'elemento, quel fattore che attualmente manca e che è mancato per molto tempo, sia a livello privato sia a livello pubblico, evidentemente. Benissimo, ci fermiamo, ora il meteo. State ascoltando un programma offerto da Gamma Kia, l'unica con 7 anni di garanzia. Focus Economia. Alle 17:35 di nuovo insieme Focus Economia, siamo in compagnia di Salvio Capasso, responsabile dell'ufficio studi sull'economia delle imprese del territorio di SRM, centro studi collegato a Banca Intesa, oggi insieme al centro studi di Confindustria, l'indagine sul prodotto interno lordo del Mezzogiorno. Sono usciti poco fa dei dati diffusi dall'Istat che, Capasso, ci aiuteranno anche a commentare maggiormente i dati di cui stavamo parlando. L'Istat poco fa segnala: prosegue l'evoluzione moderatamente positiva dell'economia italiana e, nonostante la fase di debolezza del commercio mondiale e il lieve rallentamento della crescita occupazionale, l'indicatore anticipatore suggerisce una prosecuzione dell'espansione dell'attività economica anche nei prossimi mesi. Questo per quanto riguarda la crescita. Meno bene l'occupazione. Il miglioramento dell'occupazione degli ultimi mesi ha subito una battuta d'arresto, dice l'Istat. All'incremento congiunturale di agosto sono seguiti i cali di settembre e ottobre. Ancora l'Istat, per quanto riguarda l'inflazione, preoccupa la prolungata debolezza della dinamica dei prezzi. Capasso, stavamo dicendo dell'occupazione, ma un elemento che ha contribuito a rivitalizzare il Mezzogiorno è l'export. Che cosa intendiamo quando parliamo di export per il Mezzogiorno? Che tipo di prodotti vanno via dall'Italia, ottengono un successo internazionale? Certo, e qui è il punto importante, perché il Mezzogiorno, come diceva lei bene all'inizio, pesa intorno al 10% l'export meridionale, se calcolato unicamente giustamente quei prodotti che escono dalla realtà del Mezzogiorno, e pesa per il 10% e sono in crescita nell'ultimo periodo del 3%, questo anche scontando il calo che c'è, diciamo, di valore in termini di prodotti petroliferi, che rappresentano un quinto dell'export meridionale, quindi il dato al netto dei prodotti petroliferi è molto ancora più significativo. Quali sono i prodotti che il Mezzogiorno esporta? Beh, esporta ovviamente nelle famose 4A che dicevo prima, sicuramente nei prodotti che vengono dei mezzi di trasporto, quindi automotive e aeronautico, nell'agroalimentare, che da sempre è un settore di forte crescita, di forte valore per il Mezzogiorno, così come per l'abbigliamento, ma anche settori tipo chimica, farmaceutica sono rilevanti per il Mezzogiorno. Ma l'elemento ancora più significativo è anche la componente di valore che il Mezzogiorno, come dicevo prima, inserisce nei prodotti che poi vengono esportati dal resto del paese. Infatti non dobbiamo dimenticarci che ciò che produce l'Italia, una buona fetta di quello che si produce in Italia, ha anche una sua componente meridionale. E noi da pochi mesi fa abbiamo fatto uno studio sulle interdipendenze produttive e abbiamo evidenziato come 100 euro investiti nel Mezzogiorno restituiscono al centro-nord 32 euro di domanda, che significa che c'è una forte relazione produttiva. Molti prodotti che vengono esportati al centro-nord hanno una loro attività, produzione all'interno, certo, del Mezzogiorno. Il 2016 può essere l'anno della ripartenza per il Mezzogiorno, lo dice il vicepresidente di Confindustria Alessandro Laterza. Potrebbe essere l'anno in cui accelerare gli investimenti pubblici, a cominciare da quelli cofinanziati dai fondi europei 2014-2020, e rilanciare quelli privati anche grazie al credito di imposta per gli investimenti che Confindustria ha fortemente sostenuto. Le imprese meridionali, dice Laterza, sono pronte. E Capasso, un altro aspetto positivo della vostra da approfondire della vostra indagine è che è positivo il fatturato delle grandi aziende meridionali e delle medie imprese, ma vengono penalizzate ancora una volta le piccole imprese del sud, che sono tra l'altro però la stragrande maggioranza, il 99%. Come mai? È un fatto di innovazione di prodotto, cioè prodotti delle piccole e medie imprese che non trovano riscontro nel mercato? Sì, in parte è un problema di posizionamento di mercato, in parte è un problema di dimensionamento, cioè non è solo una questione di dimensione pura, cioè della grandezza effettiva dell'impresa, ma della grandezza dell'impresa relativa al mercato in cui opera, e in questo senso molte imprese meridionali effettivamente hanno questo difetto, cioè sono poco mal dimensionate rispetto al mercato in cui vogliono operare. Indubbiamente però c'è da evidenziare come in quel famoso ambito di imprese medio grandi esistono delle eccellenze produttive e imprenditoriali del Mezzogiorno molto significative che diciamo dovrebbero fare da capofila, ed è importante perciò farle conoscere, renderle diciamo vitali e conosciute all'interno del consesso scientifico ed economico, perché possono essere dei benchmark di riferimento, perché se esistono imprese medio grandi del Mezzogiorno che operano con efficienza e con alta redditività, allora è possibile anche creare degli indotti sul territorio per far sì che anche le imprese più piccole possano competere sul mercato. Certo, altro capitolo, quello del credito alle imprese, che segnali abbiamo al sud? Finalmente diciamo ci sono segnali positivi sia in termini di domanda che in termini di offerta di credito. È indubbio che uno dei problemi essenziali e fondamentali degli italiani, anche in Mezzogiorno, è relativo al mondo delle sofferenze, dato che è ancora leggermente in crescita. Però indubbiamente anche in questo senso noi avvertiamo un cambiamento di segnale, di rotta, sia dall'ambito dell'offerta creditizia, ma anche dal lato ancora più significativo della domanda. Un importante elemento viene in particolare dai mutui, che già ha ripreso, già è già un anno, più di un anno che si sono in ripresa, e notiamo il dato che appunto l'Istat peraltro ha dato ieri, e che evidenzia anche una possibilità di crescita per il mondo delle costruzioni e tutto il mondo connesso, che è stato una delle problematiche principali in particolare per il Mezzogiorno. Il forte calo del settore delle costruzioni ha penalizzato tutto il mondo diciamo dell'indotto e anche il mondo del credito bancario, però anche dal lato degli impieghi all'attività produttiva in senso più ampio si sta notando un certo cambiamento di tendenza che può solo migliorare nel corso del 2016. Certo, chiusura intanto in calo per Piazza Affari nell'ultima seduta dell'anno. L'indice FTSE MIB ha ceduto all'1,12% a 21.418 punti, però rispetto all'inizio dell'anno, lo dicevamo nel nostro sommario, il rialzo è di ben 13,2%. E Capasso, le rubo ancora due minuti per capire una cosa. L'indagine che voi oggi avete diffuso insieme a Confindustria, che dati, che tendenza dava dall'inizio dell'anno per quanto riguarda il sud? Le chiedo questo perché, guardando per esempio lo Svimez, fino a luglio, fino a quest'estate, indicava un Mezzogiorno veramente in difficoltà, con segnali negativi. Poi lo stesso Svimez dopo l'estate aveva rivisto qualcosa in miglioramento. Voi come avete seguito durante l'anno il Mezzogiorno? Sì, noi diciamo non ci sono contraddizioni evidenti con i dati ovviamente dello Svimez. Quello che noi possiamo sottolineare è proprio l'approccio che noi diamo all'analisi del dato, perché evidentemente analizzare e conoscere un dato è fondamentale per poter agire poi sulle dinamiche e fare attuali politiche significative. Ecco, in questo senso noi cerchiamo di analizzare anche i microfenomeni che avvengono, perché evidentemente, come dicevo prima, è vitale che affoghino nei dati negativi che indubbiamente esistono. Bene, noi nel corso dell'anno anche noi abbiamo visto evidentemente un mezzogiorno che ancora risente fortemente, non potrebbe essere altrimenti, della crisi forte e prolungata che ha subito nei corsi degli ultimi 8 anni, ma indubbiamente già dalla metà di questo anno ad andare avanti i segnali di una inversione di tendenza ancora moderata evidentemente, sono segnali che devono essere rafforzati, l'abbiamo intravista e speriamo appunto che nel 2016 possano essere confermati e anche superati ovviamente. Certamente, quando parliamo di mezzogiorno, ce lo chiedono anche i nostri ascoltatori, la fotografia viene fatta sempre su donne e giovani, perché tendenzialmente sono le fasce più deboli per quanto riguarda l'intera Italia, ma soprattutto quell'area del paese. E che dati abbiamo? Ebbene, diciamo, ragionando in termini di occupazione, evidentemente i dati sono ancora diciamo complessi, nel senso che il tasso di disoccupazione o di occupazione giovanile, in parte anche quella femminile, nel mezzogiorno evidentemente ancora è pesante, diciamo è negativo, però evidentemente, e quindi qui bisogna agire molto sull'ambito della formazione, sull'ambito della formazione, ma non solo scolastica che è fondamentale, ma anche della formazione professionale e manageriale, sul livello di imprenditorialità, perché evidentemente si può agire, si può uscire da questa situazione solo anche grazie a nuova imprenditorialità, e devo dire in questo senso il mezzogiorno già un passo diciamo veloce, perché ricordo che il 40% delle imprese giovanili, cioè quelle imprese condotte da ragazzi, da giovani sotto i 35 anni, è presente nel mezzogiorno. Il mezzogiorno pesa per il 20% in quasi tutti gli indicatori, pesa per il 40% quando parliamo di numero delle imprese giovanili. Quindi questo vuol dire che comunque nel mezzogiorno i giovani hanno voglia di fare e bisogna dargli l'opportunità di farlo. Certo, e questo è un discorso che diceva lei si estende anche alle donne. Assolutamente, assolutamente. Lì è ancora più significativo l'azione che deve essere condotta, perché evidentemente solo dove le donne hanno raggiunto dei livelli, diciamo, di occupazione e di imprenditorialità significativa, ci sono livelli di crescita importanti, e c'è una stretta relazione economica tra il tasso di occupazione femminile, il tasso di imprenditorialità femminile e la crescita economica, e su questo bisogna fare ancora molto per il mezzogiorno. Grazie a Salvio Capasso, responsabile dell'ufficio studi sull'economia delle imprese del territorio e dell'ufficio per il Mediterraneo di SRM. Abbiamo approfondito l'indagine condotta insieme al centro studi di Confindustria e Banca Intesa. Ci fermiamo, ora il traffico. Focus Economia. Insieme Focus Economia, siamo allo spazio dedicato ai mercati, a Piazza Affari. Lo dicevamo poco fa, chiusura in calo per Piazza Affari nell'ultima seduta dell'anno. L'indice FTSE MIB è ceduto all'1,12% a 21.418 punti, rispetto all'inizio dell'anno però il rialzo è del 13,2% per l'indice delle blue chips milanesi. FTSE All Share meno 0,93 a 23.235 punti, male le altre banche europee, lo avevamo detto nel nostro sommario, ma la seduta debole di oggi dei mercati europei fa da contraltare comunque ad un bilancio tendenzialmente positivo dell'annata di Piazza Affari, ma anche degli altri mercati. E comunque il 2015 è stato un anno che alcuni definiscono record per la borsa italiana, sia in termini di performance che di nuove quotazioni. Il FTSE MIB, lo abbiamo visto, ha guadagnato quasi il 14%, il FTSE All Share addirittura il 16,47%, meglio allora di Parigi, Francoforte e Tokyo, che hanno avuto buoni andamenti, e nettamente meglio di Wall Street e Londra, per le quali l'anno è da dimenticare. Per quanto riguarda i migliori e i peggiori di oggi, UX fa la capofila per quanto riguarda i migliori, più 0,84%, A2A più 0,64%, STM Microelectronics più 0,40%, Finmeccanica più 0,23%, Azimut più 0,22%, male, quindi guardiamo nell'ambito del FTSE MIB i titoli che sono andati peggio nella giornata di oggi: Saipem meno 2,28%, Buzzi Unicem meno 2,13%, UbiBanca meno 2,13%, Eni meno 1,64%, Tenaris meno 1,35%, l'euro su dollaro in questo momento 1,091, Dow Jones Wall Street meno 0,28, Standard & Poor's 500 meno 0,36%. Questo per quanto riguarda la fotografia della giornata di oggi, ma con il collega Andrea Franceschi del Sole 24 Ore. Buon pomeriggio Andrea. Buon pomeriggio. Andiamo ad affrontare, lo abbiamo anticipato nel nostro sommario, l'anno finanziario. Abbiamo detto performance record per la borsa italiana. Andrea, è così e per quale motivo? Diciamo che è così, nel senso che quest'anno è stato l'anno del quantitative easing, l'anno in cui la Banca Centrale Europea si è in qualche modo accodata a quanto avevano già deciso le altre grandi banche centrali, ossia la Federal Reserve, la Bank of Japan, la Bank of England e altre, nel varare una manovra di stimolo monetario detta di quantitative easing, cioè piani di acquisti di titoli di Stato, forti iniezioni di liquidità che hanno fatto crollare i rendimenti, certo, dei titoli di Stato e riattivato l'interesse verso l'Europa. Si è scommesso su una ripresa una forte ripresa dell'economia e anche le stime degli analisti per quanto riguarda gli utili delle società quotate parlano di una crescita per il 2015 del 6%, di quasi il 7% degli utili, e di conseguenza l'interesse c'è stato molto interesse per l'Europa e soprattutto per le piazze dei paesi periferici che negli anni precedenti avevano subito molto la crisi dei debiti sovrani. Di conseguenza l'Italia più che la Spagna, certo, è stata premiata in qualche modo. È stata premiata per questo. Andrea Franceschi del Sole 24 Ore ci scrivono al 349-238-6666, parlate di anno record per la borsa italiana. Record però riferito a che cosa? Si partiva noi, parlo di Milano, da molto basso negli anni scorsi, quando si parla di queste percentuali rispetto a quale anno? All'anno precedente? No, che come performance è una performance annuale che non si vedeva da molto tempo. Resta da dire che il saldo rispetto ai livelli pre-crisi è ancora pesantemente negativo per la borsa di Milano, certo, certo, rispetto a un settembre 2008 che può essere considerato pre-crisi, nel senso che poi il grosso crack partito con il crollo di Lehman Brothers è avvenuto appunto a settembre 2008. Rispetto a quella data la borsa italiana, il FTSE MIB mostra ancora un calo del 24%. Questo è importante ricordarlo. Esatto, certo, esattamente. Nello stesso lasso di tempo invece le borse europee, l'indice Stoxx europeo ha recuperato il 28%, per cui ha già ampiamente recuperato le perdite della grande crisi. Che per rivedere i livelli pre-crisi, nel senso del 2007-2008, c'è ancora molto, molto tempo. Che il recupero è stato molto elevato, ma anche perché comunque si era toccato veramente il fondo negli anni scorsi. Andrea, perché possiamo dividere tendenzialmente i mercati europei, esclusa Londra, chi più chi meno ha avuto un 2015 tendenzialmente positivo, poi dall'altra parte possiamo mettere Wall Street e Londra, quindi le due piazze a lingua inglese hanno avuto delle performance negative, perché questa differenza? Allora, Londra è un caso molto particolare, nel senso che a Londra c'è un grosso peso delle società minerarie, un peso in termini di capitalizzazione. Le grosse società minerarie mondiali sono quotate alla borsa di Londra e quest'anno è stato un anno veramente pesante per il settore minerario, in particolare e in generale per quella delle materie prime, e questo diciamo ha pesato molto sulla performance della borsa di Londra. Per quanto riguarda Wall Street vediamo una performance più o meno piatta, diciamo l'S&P 500 mostra una variazione praticamente nulla rispetto all'anno scorso. Diciamo che questo è stato l'anno in cui un anno di svolta, nel senso che la Federal Reserve per la prima volta da 10 anni ha deciso di alzare i tassi di interesse. Abbiamo visto, è stata una cosa di recente, e questa decisione qui ha condizionato fortemente l'andamento dei mercati quest'anno. Diciamo questa la variabile monetaria è stata la variabile più importante, accompagnata anche con il rallentamento dell'economia cinese, che anch'esso ha creato molto scompiglio. Questi due elementi hanno penalizzato in particolar modo il mercato delle materie prime, come dicevo, e di conseguenza anche il mercato dei paesi emergenti. Ricordiamo che buona parte dei cosiddetti BRICS, cioè delle maggiori economie in via di sviluppo, ossia Brasile, Russia, India e Cina, certo, e Sudafrica, molte di queste sono, a parte la Cina, sono grossi esportatori di materie prime, e nel caso per esempio del Brasile questo rallentamento, questo crollo pesantissimo dei prezzi delle materie prime ha fortemente impattato sulle prospettive di crescita del paese e di conseguenza anche sulla performance della borsa. Vedo che l'indice della borsa brasiliana ha perso il 13%, ma in generale è stato un anno pesantissimo per tutte le borse dei paesi emergenti. Il saldo è di un calo del 16% per il 2015. Assolutamente. C'è stata una fuga pesantissima di capitali che ha anche fatto crollare le valute dei paesi emergenti, che hanno perso indicativamente circa il 7% in media rispetto al dollaro. Paesi che, se non sbaglio, Andrea Franceschi, Sole 24 Ore, sono legate maggiormente al dollaro piuttosto che all'euro. Esattamente, cioè diciamo che la prospettiva di un rialzo dei tassi di interesse che è avvenuta proprio a dicembre ha fatto riportare i capitali verso gli Stati Uniti, e ciò ha rafforzato di molto il dollaro. In media il dollaro si è rafforzato di circa il 5% rispetto a tutte le sue principali controparti. Questo rafforzamento del dollaro ha pesato molto diciamo in termini sia di fuga di capitali dalle borse e dai mercati obbligazionari, certo, dei paesi emergenti che negli anni scorsi invece erano stati molto inflazionati, proprio anche a causa delle politiche ultra espansive della Federal Reserve, erano stati molto inflazionati, c'è stata una grossa chiusura di posizioni, una fuga di capitali pesantissima, e questo ha avuto un impatto notevole. Probabilmente non è ancora finito questo impatto, nel senso che la grossa incognita è se diciamo ci sarà anche nel 2016, se questo impatto si vedrà anche sull'economia reale. Allora a quel punto lì bisognerà fare i conti con questa dinamica. Andrea, parlavi dell'importanza delle materie prime. Ricordo brevemente, annata da dimenticare per il petrolio, ormai sotto i $40 e con una flessione che nel corso dei 12 mesi supera il 36%, 2015 in rosso anche per l'oro, meno 11% per il rame, meno 26%, e poi l'argento chiude l'anno con un meno 15%, in difficoltà anche le commodities agricole, la soia registra una flessione del 16%, il grano addirittura del 22%, il caffè arabica meno 26%, il mais si ferma a un meno 12%, in positivo solo il cotone più 3%, tutti elementi che hanno influito quindi sull'economia internazionale. Io ringrazio Andrea Franceschi, collega del Sole 24 Ore. Ci fermiamo, spazio al giornale. Audiogrammi speciale Natale. Sei Alex Larson? Dipende da chi me lo chiede. Ho mandato una lettera. Chi mi conosce non mi scrive, perché non so leggere. Per cui non posso conoscere uno che lo fa. I grandi classici del cinema e della letteratura raccontati alla radio. Il signor Davis ha detto che dare un'istruzione a una donna è utile quanto dare un'istruzione a una gatta. Giovedì 31 dicembre, tornate bambini. Vivrete l'emozione di una grande storia, come mai l'avete ascoltata. Deve tornare libero, è la sua magia. Vi aspettiamo giovedì 31 dicembre alle 22 su Radio 24. Audiogrammi, in radio come al cinema. State ascoltando un programma offerto da Gamma Kia, l'unica con 7 anni di garanzia. Focus Economia. .07 riprendiamo il nostro percorso di oggi di Focus Economia. Una notizia uscita poco fa: Banca Italia, in collaborazione e accordo con il governo italiano e le autorità europee competenti, ha avviato il processo di vendita per le quattro banche ponte. Stiamo parlando delle quattro banche oggetto delle polemiche dell'ultimo mese: Nuova Banca Marche, Nuova Banca Etruria, Nuova Cassa di Risparmio di Chieti, Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara, saranno e sono messe quindi in vendita. Il processo di vendita verrà attuato in tempi brevi. Di questo parleremo tra circa 10 minuti nell'ultima parte di Focus Economia, dove andremo ad approfondire poi il caso di Banca Etruria. In questo spazio parliamo invece di una notizia che abbiamo anticipato all'inizio della nostra trasmissione, ma abbiamo anche ascoltato all'interno del giornale radio di Radio 24. Apple Italia dovrà versare 318 milioni di euro all'Agenzia delle Entrate nell'ambito questo del procedimento con al centro una presunta evasione fiscale con un mancato versamento dell'IRES per un totale di circa 879 milioni di euro in 5 anni, quindi stiamo parlando del periodo dal 2008 al 2013. Il colosso dell'informatica ha raggiunto un accordo con l'erario per sanare quindi il contenzioso tributario, accordo confermato dalla Procura di Milano che coordina l'inchiesta a carico di 3 manager di Apple. Il reato contestato dal procuratore aggiunto greco e dal PM Scudieri è omessa dichiarazione in base all'articolo 5 del decreto legislativo 74-2000. Per cercare di andare oltre questi numeri, capire cosa avrebbe fatto Apple Italia, ma oggettivamente evidentemente è qualcosa che ha fatto, si è raggiunto una transazione con l'erario. Coinvolgiamo nella nostra trasmissione il collega del Sole 24 Ore, Giovanni Parente. Buon pomeriggio Giovanni. Buon pomeriggio a voi. Giovanni, allora, praticamente è emerso che Apple, per far capire ai nostri ascoltatori, portava i suoi utili in Irlanda, di fatto lasciando veramente le briciole all'Italia e agli altri paesi? Esattamente così. C'è praticamente c'è stato un fenomeno che nel gergo tecnico viene definito proprio shifting. Sostanzialmente è lo spostamento dei profitti su in territori che hanno una tassazione molto più bassa della nostra. Quindi in pratica, qual è la prassi che è stata contestata ad Apple ed è contestata anche ad altre big company del settore software della digital economy? I profitti vengono in qualche modo tutti quanti imputati a una società che non ha sede nel nostro paese e le società satellite, quelle che appunto si trovano in altri paesi, risultano svolgere attività in qualche modo marginali e quindi non hanno il cuore delle attività per cui si genera il presupposto della tassazione. Certo. In questo caso, quindi sostanzialmente, come dicevi tu, la gran parte degli utili finivano la casa madre europea che si trova in Irlanda e società negli altri grandi paesi europei pagavano un numero molto ristretto, ridotto, di imposte su quello che veniva in qualche modo fatturato all'interno di quei paesi. Anzi, la contestazione che emerge appunto dal giudizio penale in corso, perché se si parla di procura e tribunale, quindi c'è un reato tributario sotteso a questa contestazione, parla di omessa dichiarazione, quindi dal 2008 al 2013 non sono stati dichiarati tutta una serie di profitti e che hanno portato a un mancato versamento dell'IRES, che è l'imposta sulle società, per circa 900 milioni, esattamente 879 milioni di euro appunto dal 2008 al 2013. E ricordiamo Giovanni che praticamente l'Italia e quindi la Procura di Milano farebbe da apripista un po' nel mondo nei confronti della Apple. Il tutto però sarebbe nato negli Stati Uniti da una commissione d'inchiesta del Senato? Esattamente, esattamente. Cioè, diciamo che questo ping pong tra Stati Uniti e Europa ha portato all'emersione di pratiche che sono state ritenute fiscalmente pericolose o fiscalmente lesive degli interessi erariali. Quello che è stato messo in luce negli Stati Uniti era proprio come fosse configurata la dinamica dello spostamento di profitti e quindi della ricerca di una tassazione più favorevole da parte di Apple, ma questo è chiaro che Apple è il caso del giorno, però direi che non è solo una questione che riguarda Apple, tanto è vero che l'OCSE a fine ottobre ha concluso un suo progetto che si chiama BEPS, che è l'acronimo sostanzialmente di spostamento di basi imponibili per sottrarre la tassazione, che evidenzia come insomma sia una prassi molto diffusa quella di cercare di minimizzare il carico fiscale cercando appunto quelle giurisdizioni, quei paesi che offrono un maggior vantaggio competitivo a livello di aliquota e di tassazione complessiva. E infatti, scusami Giovanni, parliamo ora di Apple, ma probabilmente forse lo stavi per anticipare, ma ricordiamo che i sei maggiori giganti di internet, quindi Google, Apple, Amazon, eBay, Facebook e Twitter, secondo queste ricostruzioni però della stampa, quindi devono essere accertate, avrebbero versato al fisco italiano solo pochissimo, 9 milioni di euro in tutto. Google però fatturerebbe circa 2 miliardi di euro in Italia e avrebbe pagato al fisco solo 2,1 milioni, Facebook ha versato all'erario 305 mila euro, Apple 4,2 milioni, Amazon ha incassato in Italia 54 milioni di ricavi, ha pagato al fisco solo 1,8 milioni e così via via Twitter ed eBay. Giovanni. Sì, è esattamente così, insomma, cioè, è stato sempre messo in luce quello che è il problema, no? Cioè, insomma, i grandi profitti realizzati anche nel nostro paese a fronte di un modestissimo carico fiscale. Insomma, diciamo che se consideriamo la realtà delle nostre aziende che nate e radicate in Italia, che pagano al fisco italiano fino all'ultimo centesimo, emerge, come dire, anche una sorta di distorsione fiscale che viene fuori appunto da questa vicenda. Però certo, vorrei ricordare una cosa che è abbastanza importante e tra l'altro ricordo ai nostri ascoltatori che ne parleremo domani sulla guida alla manovra in edicola con il Sole 24 Ore. Nella legge di stabilità appena approvata dal Parlamento, che oggi è attesa in Gazzetta Ufficiale, c'è una nuova norma che trae proprio origine da quel lavoro che ha fatto l'OCSE, per cui le grandi multinazionali dovranno fare un report paese per paese di quello che sono le loro attività, quindi di quanto in qualche modo fatturano, di quelli che sono i loro dipendenti, di quella che è la loro struttura produttiva. Non vorrei che anche questo accordo insomma, che è stato raggiunto con Apple, di cui oggi si è saputa la notizia, arrivi anche, perché si sa che dall'anno prossimo in qualche modo si cambia verso anche da questo punto di vista, sì, quindi sarà richiesta una maggiore trasparenza e in qualche modo si cerca di risolvere il pregresso per poi avere una dinamica più costruttiva e più trasparente nei rapporti tra fisco italiano e questi grandi player della digital economy. Bene, bene. Grazie Giovanni Parente, collega del Sole 24 Ore. Ci fermiamo ora il traffico. Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Vi presenta Focus Economia. 9:18 di nuovo insieme, Vincenzo Miglietta, Focus Economia. Parliamo ora, nell'ultima parte della trasmissione, delle banche. Iniziamo ricordando questa notizia che abbiamo già dato, ma la introduciamo anche per il collega Fabio Pavesi del Sole 24 Ore, che ci aiuterà a capire la dinamica relativa alle quattro banche delle ultime settimane. Innanzitutto saluto proprio Fabio, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te e agli ascoltatori. Fabio, allora, Banca Italia, in collaborazione e accordo con il governo italiano e le autorità europee, ha avviato il processo di vendita per le quattro banche ponte, quindi si tratta di tutte le nuove, ovvero Nuova Banca Marche, Nuova Banca Etruria, Nuova Cassa di Risparmio di Chieti, Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara. Era comunque un atto atteso e dovuto questo? Certo, quelle banche sono state ripulite. Se pensiamo che su 24 miliardi di attivo 8,5 erano crediti malati, quindi un terzo erano crediti malati finiti nella bad bank, nella discarica, insieme agli azionisti e agli obbligazionisti subordinati che hanno visto azzerarsi completamente il loro investimento, e quindi hai quattro banche nuove completamente ripulite dai prestiti malati e quindi probabilmente diventano ghiotte per gli investitori. Questo era un fatto, come dire, noto e atteso, cioè la soluzione è stata separare appunto i crediti malati dalla parte sana delle banche per poterle poi mettere in vendita. Ci saranno degli offerenti, così come ci saranno forse offerenti anche per la bad bank, perché i crediti sono stati svalutati fino al 17%, cioè un investitore domani può comprarsi i crediti malati pagando di fatto 20 su un valore nominale di 100, perché sono stati svalutati a 17, certo. Quindi anche lì si troverà probabilmente qualche compratore. Però Fabio, ecco, il problema è... Prego, sì. Riprendendo gli sms dei nostri ascoltatori al 349-238-6666, è proprio questa domanda ci viene fatta e tu la stavi, l'hai anticipata e probabilmente stavi rispondendo a questo, ma chi è che ha interesse ad acquistare sia nel bacino della bad bank e soprattutto adesso le quattro nuove banche così ripulite, a chi andranno? Agli azionisti normali, tra virgolette, o si tratta sempre di fondi o di allora, investitori molto importanti? Il tema è che in questa partita, che è vero che ha salvato i depositanti e i conti correnti, ma ha penalizzato gli azionisti e gli obbligazionisti subordinati, ha visto bruciare completamente. Io ho fatto un calcolo, le quattro banche, di fatto il valore bruciato è di 800 milioni di obbligazioni subordinate e valevano 2 miliardi i capitali bruciati dalle banche, quindi la perdita è stata forte. Il tema è che un ristoro, sì, c'è il fondo da 100 milioni che andrà incontro a quelli, probabilmente sono stati in qualche modo, tra virgolette, truffati e dovranno valutare caso per caso. C'è il tema di dove andranno le eventuali plusvalenze, cioè se un fondo estero si compra la bad bank e fa una plusvalenza, quei soldi in più dovrebbero in teoria andare ai vecchi azionisti. Cioè, spero di studiare un meccanismo per cui se ci sarà del valore che verrà estratto sarebbe giusto restituirlo a chi ha visto perdere completamente l'investimento. Penso che ci stiano pensando, perché di fatto quella svalutazione consente di acquistarli a un prezzo oggi di mercato, perché il problema delle sofferenze italiane, non dimentichiamo che il sistema bancario ha 200 miliardi di sofferenze. Qual è il tema? È che le banche non riescono a liberarsi delle sofferenze perché le hanno in carico a 40 euro su 100 di vecchio valore. Il mercato è disposto a comprarle a 20, a 15, e quindi se la banca vende rischia di avere nuove perdite. Ecco perché il mercato delle sofferenze in Italia è bloccato. Ci vorrebbe un'iniziativa per far incontrare domanda e offerta tra i compratori, che sono fondi anglosassoni, che ovviamente hanno il coltello alla parte del manico, e i venditori, che sono le banche, vorrebbero liberarsi di queste cose che bloccano i bilanci e che non possono farlo per evitare di avere perdite ulteriori, certo, nei bilanci. Certo. Questo blocca questo mercato e vale per tutto il sistema bancario, è vero, il sistema è solido, adesso non facciamo allarmismi, però è vero che il tema delle sofferenze per l'Italia è particolarmente grave. Dopo la Grecia siamo il paese con il sistema bancario più pieno di sofferenze in Europa e una soluzione andrà trovata, e questo blocca l'attività delle banche. Certo, ricordo che siamo con Fabio Pavesi, collega del Sole 24 Ore. Fabio, prima di arrivare a quello di cui tu hai scritto poi in maniera più specifica oggi su Banca Etruria, un'altra domanda è questa: perché se le svalutazioni, queste sofferenze adesso sono comunque vendibili sul mercato, per quanto ad un prezzo diverso, perché non venderle prima lasciando le vecchie banche? È questa la domanda, perché non farle fruttare prima magari ribassandone il prezzo? Non era tecnicamente possibile? No, tecnicamente tu dovevi comunque costruire una sorta di scarica, cioè tutti i prestiti malati, ripeto, ereditati da cattivissime gestioni, perché il tema vero è al di là di quello che molti accusano il governo, Banca d'Italia, il tema vero, la grande responsabilità è dei consigli di amministrazione, dei vertici di queste quattro banche che hanno fatto una gestione veramente pessima. Io non so se ci saranno estremi penali, la procura di Arezzo sta indagando, le altre procure sulle altre banche, ma di sicuro la prima responsabilità di questi crack sono degli amministratori che hanno gestito malissimo queste banche. Ricordo che Etruria, noi abbiamo scoperto nel primo verbale di Banca d'Italia, era del 2009. Già allora Etruria era considerata, non svalutava i crediti, ne aveva accumulati, sempre crediti malati, 1 miliardo su 7 miliardi di prestiti, quindi già una cifra imponente, la crisi non era ancora scoppiata, eppure Etruria aveva già accumulato molti crediti malati rispetto alle altre banche, quindi lì c'è un problema di responsabilità degli amministratori. Qual è il problema? È che mentre Banca d'Italia rilevava, la stessa banca minimizzava, cioè diceva che non erano 1 miliardo ma erano solo 200 milioni. Quindi lì la pratica è stata di minimizzare costantemente lo stato di cattiva salute, cioè questi CDA delle banche avevano tutto l'interesse a fare bilanci fittizi, a non svalutare questi crediti malati, perché non volevano far vedere il vero stato di salute delle banche, che erano pericolanti oramai da tanto tempo. Cioè, ricordiamo che il commissariamento di Banca Etruria è del 2015, Banca Marche e altre dal 2013, ma queste banche erano in crisi già nel 2011. Quindi nel 2009 già c'era questo bubone, così chiamiamolo, di Banca Etruria, e tu scrivi oggi sul Sole 24 Ore, vi era il tentativo, evidentemente poi tentativo andato a buon fine, di occultare le reali condizioni dei prestiti in sofferenza, che era una pratica diffusa e antica. Quindi... Sì, è proprio così, cioè il vero tema su cui la magistratura dovrà indagare, spero si faccia un po' di chiarezza, è che si dava una visione distorta ai risparmiatori e agli investitori, cioè la tua banca sta bene, l'ultimo aumento di capitale l'ex presidente Fornasai dichiarava che la banca adesso, la banca è solida, mai stata così solida, poi si è visto com'è finita, e quindi il discorso si faceva tecnicamente, pur avendo grandi crediti malati non venivano svalutati trimestre su trimestre, per cui la banca continuava a fare gli utili, apparentemente sembrava in salute, in realtà era veramente malmessa, perché aveva crediti malati che erano il doppio della media del sistema delle altre banche italiane, quindi è un segnale d'allarme molto forte. Questo segnale d'allarme è stato chiaramente sottaciuto dai CDA di queste quattro banche, e quindi questo ha anche indotto i risparmiatori, non dimentichiamo sono banche locali, quindi c'è un rapporto di fiducia sul territorio, e quindi uno andava allo sportello, le banche in quel momento dovevano fare raccolte, quindi vendevano i bond ai loro clienti. Però non erano consci del rischio, proprio perché nei bilanci apparentemente queste banche sembravano, tra virgolette, in salute, quando in realtà erano da anni che in salute non erano certo, affatto. Certo. Questo Fabio, è stato il vero problema. Abbiamo un minuto da ora, però ti volevo chiedere questo. A questo punto Banca d'Italia già nel 2009 sottolineava 1 miliardo quindi di sofferenze. Sì. Banca Etruria diceva no, sono, da quanto hai detto tu, 200... Sì. Milioni. 50, ora sì. Sì, ora appare evidente che quindi anche Banca Italia forse non si è fatta sentire come avrebbe dovuto. No, sai qual è il tema? Banca Italia ha fatto ben 3 ispezioni, ogni ispezione era una bastonata nei confronti del CDA, poi sono arrivate pure le multe nel 2014. Dico solo che si è impiegato molto tempo, cioè Banca Italia dice: io non ho i poteri di cacciare un consiglio di amministrazione su due piedi, devo fare i passi formali, devo fare le controdeduzioni, il CDA può rispondermi, può dirmi no, non è così, ti spiego perché. Il dramma però è che in tutto questo lasso di tempo non c'è stato un intervento forte che andava forse effettuato ben prima della crisi che oramai era conclamata. Cioè, certo. C'è una certa lentezza a intervenire, non per colpa di Banca Italia, è un problema di legislazione. La legge dovrebbe fare una legge in cui si dota la vigilanza di poteri di intervento più drastici. Vediamo se nel 2016 si troverà una soluzione a questo dramma che evidentemente per tanti risparmiatori è tale. Grazie a Fabio Pavesi, collega del Sole 24 Ore. Focus Economia termina qui. Un saluto e buon anno da Vincenzo Miglietta. Radio 24, la passione si sente.